Con Alessio Cremonini, regista del film Sulla mia pelle, uscito in sala il 12 settembre scorso. Alessio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Come lo presenteresti il film? Lo presenterei per quello che è, cioè una ricostruzione il più accurata possibile, date soprattutto i verbali, che sono la nostra fonte, mi sembra la giusta fonte, visto che in questo paese ci sono dei magistrati che hanno il potere di indagare e quindi un grado di coercizione verso chi ho indagato o per i test, che quindi diciamo, dove mi aspettavo di trovare delle cose e quindi delle dichiarazioni importanti. Infatti in 10.000 pagine queste dichiarazioni e ricostruzioni importanti sono state trovate, tanto che non ho intervistato poi altri, che perché mi è sembrato che la funzione del magistrato fosse più grande della mia, ecco. E quindi un'assicurazione da questo punto di vista maggiore di quella che possono dare due sceneggiatori, perché ricordo che c'è anche la co-sceneggiatrice Elise Nursultan. E abbiamo intervistato, ci siamo, come dire, permessi invece di intervistare una volta i genitori, perché chiaramente il lutto di un figlio è sempre difficile da metabolizzare, quindi con grande grazia e, come dire, senza essere troppo invadenti all'interno dei genitori di Stefano Cucchi. Invece con Ilaria e con Fabio Anselmo, che è il loro avvocato, ci siamo sentiti e visti più volte, perché lì chiaramente sono più pronti, insomma, anche l'età in fondo, no? Di Ilaria l'età aiuta Sì. non a metabolizzare, ma a gestire la sofferenza, ecco. Come era partito il progetto, l'idea e il progetto? Ma è partito perché ascoltando una radio, io ascolto spesso la radio, almeno quelle che riesco a prendere nel quartiere in cui sto, c'era una intervista appunto a Ilaria Cucchi a Fabio Anselmo Ti dico che sinceramente io, ascoltando questa intervista, mi sono detto: accidenti, mi sono perso il film su Stefano Cucchi, perché ero veramente, questo è successo 2 anni fa, ero veramente convinto che fosse stato fatto, che il cinema avesse avuto la possibilità di raccontare questa storia. Quindi sono andato su internet a cercare il titolo, dico la verità, per andarlo a affittare nel negozio di DVD più vicino. E circa, circa, circa, dopo 5 minuti mi sono convinto che non c'era. C'era solo un piccolo documentario che era passato a Roma, molto bello. E a quel punto, in qualche modo, per fare il film che avrei voluto affittare a 200 metri di distanza dal negozio DVD, ci ho messo 2 anni e mezzo. In qualche modo ho fatto da spettatore del film che avrei voluto affittare, e quindi da regista a quel punto, ecco, in questo senso. Così è Sì. iniziato, poi tutto il resto è venuto poi piano piano, ecco. Sì, ecco, l'attenzione che hai rivolto poi agli atti giudiziari e alle interviste con i diretti interessati è resa bene anche questa attenzione verso la veridicità, ad esempio nella scansione cronologica che hai dato al film che richiama subito un'accuratezza di ricostruzione. Sì, perché a parte che a me sembrava quasi un depression, il film sul supplizio di Gesù in qualche modo, al di là della questione religiosa, però che insomma accadesse una cosa simile a un nostro concittadino, in qualche modo che ci fossero quasi delle stazioni della Via Crucis, adesso passami questo parallelismo, era scandaloso in qualche modo, quindi serviva a far vedere che cosa un nostro concittadino. In poco tempo quanti punti era andato, dove era stato sballottato, cioè questo era fondamentale, perché la giusta distanza, cioè dare al cittadino spettatore il più possibile, per quanto può fare il cinema in un'ora e mezza, tutte le cose che ci sembravano più importanti, quindi la scansione e quindi anche il certificare con delle scritte i luoghi in cui avvenivano gli interrogatori o anche dei dialoghi tra detenuti era, secondo noi, fondamentale, anche per avere una giusta distanza, per non apparire ultra, perché in questa storia se apparivamo ultra non avremmo centrato l'obiettivo. Abbiamo cercato di essere il più, per quanto, ripeto, umanamente possibile, oggettivi sulla questione, e quello è terribile, perché già quello che si fa vedere, insomma, già Ecco, è mortificante. rispetto all'obiettivo, Alessio, ti chiedo intanto com'è andata questa prima settimana di programmazione. Beh, io penso che questa prima settimana, cioè, noi, io dico noi perché veramente un regista non è mai il il proprietario, tra virgolette, a parte che sulla proprietà potremmo aprire un discorso, ma insomma molto lungo. Ma il detentore di una proprietà intellettuale riguardo al film, cioè sono in tanti, sono gli attori, c'è cioè lo straordinario Alessandro Borghi, Jasmine Trink che fa una parte più piccola, ma altrettanto bene, Max Tortora, Milvia Marigliano, e questi sono attori e tanti altri, ma la sceneggiatrice, il montatore, il direttore della fotografia, quindi dico un noi. Noi siamo molto felici perché siamo in sala e sta andando bene. È su Netflix, so che questo può apparire strano, però per me personalmente, avendo tantissimi amici che hanno purtroppo dovuto abbandonare questo paese perché non trovano lavoro, quando mi hanno detto guarda che è intervenuta Netflix, questo è un film finito, hanno visto il film e lo compreranno, lo vogliono, io da questo punto di vista che sto per dirti, sono stato felice perché sono sicuro che tutte queste persone, amici, ma anche persone che non conoscono, che stanno nei quattro angoli del mondo per lavorare, perché qui non hanno trovato lavoro, non gli è stata data questa possibilità, così l'hanno potuto vedere. Con la forza ormai che ha il cinema italiano di entrare in alcuni paesi, era proprio impossibile, cioè al massimo avremmo avuto due copie a Parigi, magari una a Barcellona, una in Inghilterra e due a New York, adesso per dire. E poi ci sono tutti i nostri concittadini che sono all'estero, magari da una seconda generazione, che però il caso Cucchi lo conoscono perché comunque hanno legame con l'Italia. Allora, cioè, di preoccuparsi dei nostri concittadini solo, e permettimi le virgolette, nella retorica del voto dei cittadini all'estero, allora anche che questi concittadini all'estero, però su argomenti che probabilmente gli interessano, possono avere la possibilità di accedere a quel contenuto. Alessio, che tipo di impressione hai ricavato da questa vicenda? Quella che spero che hanno ricavato anche gli spettatori, poi per fortuna il lavoro che ha fatto, lo chiamo lavoro perché credo che Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo ormai quasi lavorino purtroppo anche per noi. Che impressione, che io trovo scandaloso che un nostro concittadino entri vivo all'interno del meccanismo giudiziario e che ne esca morto. Voglio dire, noi abbiamo dato tutte le garanzie costituzionali di cui il nostro paese, grazie alla resistenza e liberazione, si è dato a un uomo come Pripke, accusato di molto peggio, di detenere 20 grammi di fumo. E io questo sono contento che l'abbiamo dato a Pripke, perché così, come dire, non abbiamo scheletri nell'armadio, però sarei stato molto più contento. E non abbiamo complessi di colpa in questo senso, dico, perché abbiamo potuto condannare, pur dando tutte le garanzie che quell'uomo lì non ha dato a chi è morto per la sua mano. Allora, invece per Stefano Cucchi, che era accusato di detenere 20 grammi di fumo, e su questo poi sul fatto della colpevolezza di un reato come quello di detenzione di fumo dovremmo aprire un'altra parentesi enorme in questo paese. Io trovo che sia scandaloso, capisci? Sì. Uno dei grandi meriti del film è dare questa impressione umana di una tragedia vissuta in profonda solitudine e sembra tutto costruito per rendere questo effetto. Sì, hai perfettamente ragione e sono felice che questo riesca a passare, perché la cosa che umanamente, personalmente, ma anche a tutti noi ci sembrava la cosa più orribile, cioè che in qualche modo dei genitori e una sorella non potessero accedere a poter almeno avere dei chiarimenti dai medici sullo stato di salute del proprio congiunto. E che quest'uomo probabilmente è morto pensando che era stato in qualche modo, che c'era un giudizio negativo nei suoi confronti da parte dei genitori, perché non ha più, da quando è processato, nel secondo giorno dell'arresto, poi non ha più potuto vedere nessuno, non ha avuto più notizie. Questa è, anche questo tra virgolette, ma è una tortura psicologica che viene fatta. Io non dico che sia stato fatto in maniera, come dire, apposta, ma forse ancora peggio, cioè che una burocrazia terribile, non si renda conto a volte, non è mai umana in qualche modo. Poi questa burocrazia è cambiata, so, a medicina protetta, cioè le regole che poi adesso oggi ci sono tra detenuti che sono nelle stanze di cura a medicina protetta al Sandro Pertini adesso non sono le stesse di quando c'era Stefano Cucchi, e credo che siano state cambiate poco dopo. Questo per dire che forse non è, Sì. Sì, perdonami, ti interrompo, questo per dire che forse non erano così necessarie, appunto. sì. E l'altro effetto forte è il rendere questo lasciarsi andare un atto di ribellione estrema a una profonda ingiustizia. Stefano Cucchi ha chiesto, e questo lo dicono, essendo morto Stefano Cucchi non può avercelo rivelato, ce lo dicono le testimonianze, ci sono più testimonianze di persone che dicevano questo e l'hanno detto e scritto, riportato nei verbali dei vari processi, tanto che poi un medico è stato costretto, sotto invito di Stefano Cucchi, a scrivere: io rifiuto questa cosa perché voglio parlare con il mio avvocato e con un assistente sociale, siccome Stefano Cucchi era stato aiutato in varie comunità, e quindi di questo ragazzo che lavora in comunità. Quindi, insomma, questo denuncia anche una certa lucidità di Stefano Cucchi nel cercare almeno quello che dovrebbe essere garantito a tutti, cioè un colloquio con il proprio avvocato. E però anche una profonda solitudine, appunto, anche dal punto di vista, insomma, se un uomo che è incarcerato non può nemmeno più parlare col proprio avvocato e sta anche male e poi muore, è grave come situazione, Sì, molto sì, grave. sì, sì. Alessio, di nuovo complimenti. Ricordiamo il film Sulla mia pelle per la tua regia in sala dal 12 settembre scorso. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie infinite a tutti voi, grazie. Ciao.